Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can try. 06 49 17 50 il contatto telefonico. My Africa want to be free. Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001 Via Revolci 56 Roma. E sono disponibili anche presso i nostri studi e nelle iniziative sparse per Roma le agende di Scarceranda 2014, un'agenda autoprodotta contro il carcere a 12 euro che vi farà compagnia tutto l'anno. Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano che vi terrà compagnia fino alle 18. Africa wants to be free, like a lion in the jungle. Africa wants to be free. Like a bird in the sky. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama Africa want to be free. Allora cominciamo con le nostre selezioni per questo ultimo sabato del 2013. Loro si chiamano i Positive Black Soul ed è un gruppo hip hop di Dakar, fondato nel 1989. Dal loro album New York, Paris, Dakar, un viaggio che hanno fatto negli Stati Uniti dove sono confrontati anche con altri maestri dell'hip hop. E allora i Positive Black Soul con il brano De Glui. Positive Black Soul when you're 21 then again. When you're how are you? Agdegiti. What can I tell you? If I'm your friend, find your mirror, you'll touch your heart. Connect, I'm a wallet, connect me. Connect, Konbi kana boko tul janga nenen janga bi dafa nyanga lolo tax ñu lank mo do nga janga fi ba lendi lutax nga am li jassa tok ba seta ti tang lolo meye lolo ko mu yassa dama ne man mi awati lolo mu numu ko wedi janga na ba dem fa cité lu ma fa gis mom dafa metti ko fa gis mom bëgna takki ko fa gis mom bëgna tabi wante dara bi dafa tuti te no nga yang fa bëri jangal kat bi tay mu na kas ken duko fay gas ba sey ken duko fay cité bi dafa tuti dama ne ken xajatu fi mu ne bi dañ ko dojje dama ne dara de situ fi legi bossi domu bossi ñoko mom kenn mo weddi ba do lo mu nu fi teki teki teki na nga weddi domu bossi yeg di jang sen baye ñoñu jité su be dik melni demb sen mami ñoko jégué degi ci ndax yaangi déglu ndax yaangi setlu d'ailleurs amna feb ndax trop vous m'avez fait les coups, ce boy be doudou. Amna affaire pour me yagoa. J'ai l'impression que le gouvernement s'en fout. De guitare, y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a I'm the nature of my tennis and the lock of the for good do. I'm the joke of my tennis, then you better to go. That time be like a man about a mullah, a less buck. More than you better than you mood you done night. Coco, my way you like a mini mind to the domino. Sisson your jammer, no. Duck a bit from what you damn, but Matty White. You see Ness and your nanga, dinga, jam, attack it on. Call out you do. Papa, I'm the fanatic on police, yeah. Hey, Ben, the boss, you daddy, Kera, yeah. Yeah, I jay, the fasona. I reckon like a tunu nana, tunu jangle, tunu jamana, yo, you met you on the moon, a bopum. Put the water nimble, what I'm okay, the house, Italy, cucurumba, mufal, Nangusa calpe, sumile, yo, pusayere, the taxi, but mohachi, dorla, jase, yo, yang, it took a curb, would have had like a junior, Nangone, the bun, but how many leafy name, morphine, one, gone, yo, me, Dima, deglo, nanga, jima, and gurbek, the cabin, yo, jahase, burn, yo, jana, Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Wow, mangi deglu. Domo no wela wadi kham nga du sagati yaga nañ ma jikko jitu yaga nañ ma jitté mo wat na dina jax ma jongu jengu je ma ñafé ñafé dafa metti dafa baagi jafé jafé fo jañu demala kal nga gal nga jall bo nga jitu mo de yow dinañ la fal lawlu lañuy ti ben ben de ragal yalla yo mi tutu ti ma tek lo jemu mala jappale li nga nekke tutu nga du yor ko mani deglu nekk xamna ni dekk bi dafa metti nga yak sa family wan nga bañi li nga nekk li ga jema tekki mo waqt chila nan nan you said take nan harlen mo yo bulen fenan I'm no you better you are a man I'm saga wa aggression the for the girl hey yo ndak yangi deglu wow mangi deglu deglu ti ndak yangi deglu awadi yo mangi deglu awadi ndak yangi deglu wow mangi deglu deglu ti ndak yangi deglu yo awadi yo mangi deglu awadi ndak yangi deglu wow mangi deglu deglu ti ndak yangi deglu awadi yo mangi deglu awadi ndak yangi deglu wow mangi deglu deglu ti ndak yangi deglu I Positive Black Soul sono Didier Soru Awadi, detto anche DJ Awadi, Amadou Barry, Doug e T, e loro appunto sono stati i primi e anche i più famosi musicisti della scena hip hop di Dakar. Questo album è stato registrato fra New York e Parigi e Dakar, e con la collaborazione del rapper americano KRS-One, e appunto loro si sono confrontati con la scena musicale dell'hip hop americano, ma insomma sono anche cresciuti parecchio. Adesso Didier Awadi va per conto suo e va veramente forte. E allora ancora su questa falsa riga, lui si chiama MC Solar, anche lui viene dal Senegal ma risiede in Francia, dal suo prossimo combat. L'air du temps du globe, la plèbe et le snob apprend surpris que le dilettante pense à devenir MC Solar par correspondance. Cool tel un bab, bon comme Bob, cop de la pensée que le gogo baba gob. Sans blague je m'éclate avec les gâtes de Dupontel. Aime au ciné le jeu de la belle Isabelle. Je mange de la musique énergétique, garde dans ma poche la colite du mic. Mon pic pratique un esthétique constat, une technique unique nommée le prose combat. L'ex de mon ex n'est pas tex ni mexicain, c'est un mec honnête, net, poussé par le bien. Bien entendu, il se place avec classe, s'efface et fait surface, tout se passe par passe-passe. Passe-moi le mic et capte ses mots. qui sème le vent récolte le tempo. Mon cerveau est pour mon stylo le moteur. Paix au système des respects à MacGyver. Quand avec une allumette il fait un catamaran, c'est marrant et je ris comme Fanny Ardant. Occasionnellement pourtant mon pic se bat avec l'art subtil du prose combat. Cette fois, le ciel est beau, je squatte en solo sur un banc public près de Campo Formio. Je pense à l'SOS issu de mon esprit. Allô, papa, Tango, Charlie, le père de celle qui partage un mandol au pilo, avec les idées proches de celle de JM, le stylo. Hostile à mon style, j'ai filé, passé composé pour créer le plus que parfait. Elle suit son chemin, je suis le chemin. Tous les chemins mènent à l'homme, dit le parchemin. Le papa gaga a pour dada, déteste caca. L'arsonné au dada fait du prose combat. E lui è Claude Baralì, detto anche MC Solare, che è nato a Dakar, ma quando aveva solo 6 mesi si è trasferito con i suoi genitori in Francia e all'età di 12 anni scopre Africa Mambata, la Zulu Nation, e rimane affascinato appunto dalla cultura hip hop. Ha coniato il nome d'arte MC Solare nella sua adolescenza dai suoi tag graffiti Soar e Solar. Il suo primo album, che si intitolava Chi semina vento raccoglie tempesta, vendette nel 91 400.000 copie, e poi appunto Proscomba, il brano che ci siamo ascoltati, è proprio dall'album che porta lo stesso nome, del 1994, e ha venduto più di 100.000 copie. E allora l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. Questa è Radio Africa. E allora ancora queste sonorità. Lui si chiama Abkas, è un giovane congolese che racconta del suo rapporto con la sua terra. Amashabele Soleil e il suo album, il brano Mbia Kitoko, che parla della bellezza femminile africana. J'aime une femme qui s'appelle Mbia Kitoko. Quelque part en Afrique, un soir de pleine lune, entre les dunes du Sahara et les lagunes du Bas-Congo, dans un village peuplé de femmes d'une beauté indescriptible, les unes plus belles que les autres, chacune avec un trait particulier qui la rend unique, belle comme la lune quand elle se glisse sous sa tunique, magnifique, gracieuse, même dans ses mimiques, du sang de reine coule dans ses veines, une femme unique, Bia, un nom sublime comme le visage de cette femme, douce, la plus belle de son village, sa peau noir comme la nuit, un noir éclatant, c'est belle, on la dirait sculptée depuis l'ébène. Ses cheveux sont une œuvre d'art vivante, magnifiquement tressée. Ses yeux doux comme le miel incitent à rêver, s'évader, remonter le temps. Au temps où régnait la paix et l'harmonie sur terre, un temps qui semble éloigné. La muse de mes rêves s'appelle Bia, belle comme Makeba, Myriam et forte comme Makeda. Descendante de beaucoup, la grande reine Baoulé, enfant que l'humanité inspire le respect de ses aînés. Bia m'a enseigné l'amour et m'a fait baigner dans une atmosphère qui fait que aujourd'hui j'ai du respect pour la brown skin, le black serbe africaine. Qui sait que black is beautiful, non? Pas besoin d'artifice, tissage pour des cheveux lisses, d'éclaircir ta peau pour ressembler à une métisse. Non, contente-toi de regarder ce miroir et tu verras une femme noire belle comme une touche d'espoir. Mbia Kitoko. Mbia Kitoko. Ah. Mbia Kitoko. À l'époque de la mousson, on cette saison où les arbres sont à l'aube de leur floraison. L'eau de pluie avait rendu à la terre ocre tout son vert naturel, un véritable choc. Et pour mes yeux, un aphrodisiaque. La rosée sur mes spartiates en peau de bête, je traversais les hautes herbes en quête de bois sec. Imprudent, j'avais quitté les terres de la tribu. J'ai marché ainsi jusqu'à ce que le soleil fût remplacé par la pleine lune haute sur la lagune. Je m'étais perdu, je me suis tapi dans un arbre mort capitonné de lichen. Fatigué, paniqué, je m'allonge et je m'endors. Rêve ou réalité, le doute plane encore. J'ai vu quoi plutôt qui Lia Kitoko, la femme noire, plus belle que dans toutes les histoires. Lia Kitoko auréolée, l'Afrique faite femme vêtue d'un pagne coloré. La peau de noir immaculée pure, reflétant la lune telle une Black Panther. Ses hanches ont enfanté tout un peuple, sa poitrine généreuse a allaité tout un peuple, ses lèvres épaisses ont conseillé tout un peuple, ses bras fermes emportaient tout un peuple. Majesté, majesté, Lia. Souviens-toi et transmets ceci. Je suis ta mère, ta femme, ta fille. Je suis Lia Kitoko, je suis Lia, la femme. Apkaz con questo suo sofisticato sound che ci racconta appunto il rapporto fra questo giovane congolese che vive in Belgio e la sua terra, un album questo Le Machin vers le Soleil molto interessante, anche con dei testi particolarmente acuti che raccontano appunto del colonialismo, della storia del Congo, di Lumumba e anche appunto di alcuni aspetti della vita sociale in questo paese, come d'altra parte fanno molti artisti che vivono della diaspora africana. E invece ce ne ritorniamo in Senegal con i Bide Boubès, che è un gruppo fondato nel 94, che era composto, adesso sono diventati due, da tre fratelli, Moutar, Beide e Ibrahim. E Bide Boubès era stato lanciato dalla label di Youssoundour Djololi ed è stato uno dei gruppi significativi della scena hip hop dakaroise. E allora loro ce li ascoltiamo in questo Kailene. Bideo Boubès. Style Magnum. Style Dynamite. Aye. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hey, y'all don't fear multi-track. Some still do fit act. Oh yes, we come back. Lippin' name my job. Hip hop do how we go on about Kananga. When you die, we get hard. Some still do for Japan, they like Kalawa. Say God, you're gonna be the best in the other queen thing that still be. I am the Gabon Hall, Hamulo, Nadadi, queen thing that still be. Some hell of a nail, one of the Goyadi, queen thing that still be. Shaitan and Salam, they want another Jagadi, queen thing that still be. Yaw the Gabaya, they get the Gola no more demini. I think I'm my enemy. So yum, you might catch along, Babu, my enemy. They come my summer friendly. So yum, you might jagger one, Babu, my friendly. Some attacking in this, some throwing in this, some fighting in this, some writing in this. Everybody can say, yo, ring the alarm, demon, yo, listen. Bide Boubès mu jaar da fay dalale ay sar da fay represent mo fi war te xarnya Bide Boubès mu jaar da fay dalale ay sar da fay represent mo fi war te xarnya Ñew indi flow jappal bulkoba fo man tiné yow sama bro jappal bulkoba Bide Boubès ñew indi flow jappal bulkoba fo man tiné yow sama bro jappal bulkoba man kay may bëpp enemy Bide Boubès ñewati yow fu mu jaar nga xamati yow con real MC Dalla scena musicale di Dakar. Allora, 16:56, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Allora, poi ci teniamo ancora dalle parti di Dakar, dove incontriamo i Daraji. Daraji Wolof significa scuola di vita ed è un trio hip hop formato da Ndongo D, Alhaji Man e Fada Freddy, e loro hanno cominciato nel 1997 la loro prima cassetta, perché naturalmente la scena, la maggior parte della distribuzione della musica in Africa viene attraverso le cassette, ebbe subito un grande successo e loro poi si rifanno nel loro stile hip hop al tassù. Il tassù è una forma, diciamo così, di performance verbale usata in Senegal tradizionalmente per discutere degli avvenimenti sociali e politici, e loro si sono fatti interpreti della tensione politica e anche dei desideri dei giovani in una fase particolarmente delicata della storia sociale e politica del Senegal, quelle che poi precedette le elezioni di Wade. E allora loro hanno avuto il loro successo nel 2003 con un album Boomerang, dove c'era anche come ospite Rokia Traoré, e proprio da questo album dei Daraji ci ascoltiamo il brano Number One. Oh yeah! Yo, musical love. She gets it now. Yo, special dance all for toutes les gyales. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. You ready now? Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il y a une chose en elle que j'aime. Quand elle nous frappe, on ne sent aucune peine. Je sais que tu es ma bouffée d'oxygène. Chiquitine, number one de ma liste, elle m'a foutu la folie. Je veux son body. C'est ma maladie, mon extase. Nourrit mon âme et mon esprit. Éternelle mélodie, je te dédie ma vie. S'agit même pas de money, je suis tombé dingue. Digi di dingue, d'elle. Rythme dead dans mon corps, dans mes pages, je m'enfuis. Je danserai avec toi jusqu'à l'infini. Une passion que témoigne tous ces moments difficiles. Le temps les efface, nos larmes indélébiles. Avec toi, for life, tu m'as donné de l'espoir. Beauté divine. Je sens comme elle est bonne. Ceci est pour les rules que l'on est dans ça. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Elle est toute des filles. Musique, c'est toi que j'ai choisi. Comme l'antiquaire aime l'art gothique, et comme la rue aime l'art gothique, moi je me pique d'un arsenic harmonique. Oui d'elle, je suis narcotique. Il suffit qu'elle me fasse un clin d'œil, j'explose mes douilles. Oui, je mets mon orgueil en deuil. J'en suis, je perds mon portefeuille. Je tombe raide comme une morte chouette. Je chante ton amour pour la musique sans faille. Même si tu me traites de pure saï-saï. Avec elle, jamais je me déraille. Quand elle sonne dans mes oreilles, je suis die-die-die. Fidèle à ses décibels, sa beauté est mon récital. Je veux vivre ma vie avec la magie musicale. Ivre de plaisir naturel, pour moi c'est primordial. C'est elle que je désire, ressens comme elle est bonne. Ceci est pour les rules que l'on est dans ça. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Elle est toute des filles, musique c'est toi que j'ai choisi. Elle occupe mes pensées, détend mes paroles. Elle lève les artifices quand elle dévoile son body. Ce petit quelque chose qui fait crier tous les hommes. Chiquitita, aucune mes pensées, détend mes poires. Elle lève les artifices quand elle dévoile son barré. Ré, mi, fa, sol, la, si belle. Seule qu'elle peut me faire toucher le septième ciel. C'est elle que je désire, ressens comme elle est bonne. Ceci est pour les rôles que l'on est dans ça. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love, girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Elle est toute des filles, musique c'est toi que j'ai choisi. C'est elle que je désire, ressens comme elle est bonne. Ceci est pour les rules que l'on est dans ça. Elle est toute ma vie, c'est ma number one. One love girl, vitamine ton physical. Elle n'a pas de soucis, au fond de moi raison. Du pur son et de la passion musicale. Elle est toute des filles, musique c'est toi que j'ai choisi. Number one dei Dara G dal loro album Boomerang. E come molti artisti dell'onda hip hop in Senegal sono passati sotto l'ala protettiva di Yosson Dur che li ha prodotti, è successo qualcosa di analogo soprattutto per tutti quegli artisti che in Francia sono passati appunto attraverso le amorevoli cure di Passy. Passy è un rapper franco-congolese che è stato l'animatore del progetto Bisso un Abisso, che appunto ha prodotto e aiutato tantissimi artisti, come è il caso di Saya ha passato la sua infanzia a Martinica e faceva parte del collettivo Red Zone come solista e corista sotto lo pseudonimo di Sud Saya, e appunto lei ha incontrato Passy che era in quel momento aveva in mano la casa discografica ISAP e insieme hanno fatto questo brano Tourner les Pages, che è un brano che ha avuto un enorme successo e che appunto ha fatto scoprire anche Saya e la sua bellissima voce. E allora Tourner les Pages, Saya insieme a Passy. J'habite territoire que seuls les tours délimitent. Dans les squares, le bis plébiscite. Rien pour les pleurs, tout pour l'illicite. Pour des barrettes ou des thunes, ça se dispute. Pour la répute, combien se disputent. Et même si dans le système certains luttent, d'autres frappent, puis discutent. Je fais partie d'une majorité associée à une minorité. Les bons prennent toujours pour les mauvais. Moi j'ai pas fini de payer. J'ai plus faim, je crois, puis j'en mets bagage. Loin des des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage, partagé en joie et rage. Pour voir la mer traîner dans les parages, il m'en a fallu tourner les pages. Des pages, des pages. J'suis plus que celle à qui l'on raconte des histoires, qu'on oublie le jour qu'on regarde le soir. Esquive les ambiances bizarres, loin des trafics donc des gyrophares. À défaut de vis, j'carde bon pied, bon oeil. Feinte le diable en attendant que les anges m'accueillent. Très tôt j'ai su faire le deuil du traditionnel cul dans le fauteuil. Des portes je me suis mangé, malheureusement non rien n'a changé. Les bons prennent toujours pour les mauvais, moi j'ai pas fini de payer. J'ai 23 piges dans mes bagages, loin des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage, partagé en joie et rage. Pour voir la mer traîner dans les parages, il m'en a fallu tourner les pages. Des pages, des pages, des pages. J'suis pas fan des plans suspects, mais j'dois bien m'adapter. Troquer mes livres pour des barrettes. Depuis le maçon, ça peut être elle, toi, moi, dans la ruelle qu'on arrête. Mate la dèche dehors. Texte et une lettre aux potes, dans le stalag, le goulag, sur le remix de Saya. Je galvanise mes gars, c'est ton pote dans la stéréo, pas de resta, l'amour reste là. Je veux pas que tu pètes les plombs, j'ai pas choisi tout ça. Esquive le mitard, les mythos, lâche tes cris, lâche pas. On est tous un jour libérables. Et on ne veut plus payer. J'ai 23 piges dans mes bagages, loin des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage, tous les enfants du bitume, partagé en joie et rage. Aux jeunes sur la geôle, leur destin c'est le Dieu le sait. Parloir courrier tourné, c'est la merde, ça je le sais. Message sain, même si je suis pas un messie, même si j'ai pas toujours été sage. C'est ce bordel et tourner des pages. Ouais, ouais. Des pages et des pages. Ouais. Encore une pensée à ceux qui rêvent de liberté. Capodanno 2014, odio il carcere. A partire dalle 10.30, sotto il carcere di Rebibbia, via Ugo Maietti, angolo via Bartolo Longo. Presidio sonoro e lenticchiata propiziatoria. Dalle 24, Loa Acrobax, via della Vasca Navale 6, Capodanno con Radio Onda Rossa. Uogiaggia in concerto. Reggae Yard con Radio Torre Sound System, Dai pure te e Morfire. The Room con sonorità trash 60, 70, 80 e 90 con Take It Easy and Friends. Ingresso 6 euro, benefit per le spese legali degli imputati e delle imputate del processo per i fatti del 15 ottobre 2011. Non ci resta da fare che l'atto finale è brindare con tutti senza dimenticare. Per superstizione si guardano gli occhi, in alto il bicchiere, signori e signore, siamo pronti per bere, siamo pronti a brindare, brindo alla morte. Oh, ce soir c'est Bissot sur scène, jette mon couplet. C'est Yes Weekend version rap congolais. Des jaunes, des blagues, des Mundele, des gars d'Enzele. Africa Unité, ambiance IK. Ma tenue est prête pour ce soir. D'abord je passe au massage chez la Rosa. Et pour l'énergie, un plat du pays. Allô, ouais. Mais c'est à quelle heure ce soir? On se réglophone, ce soir l'Afrique et le style parle. Donc je fais un tour chez Babs, mon coiffeur 5 étoiles. Après-midi, Songhi, Songhi à Châtelet, les Halles. Les moves, les ragots, il faut que je taille normal. Normal. Quand on arrive, on dit bis. Si tu kiffes, tu dis so. Bien. connais l'heure africaine, esprit de Jeddah. Faut que je trouve un bluff vite fait, j'enfile un incroyable costard. Fonce au volant de mon Merco, zigzag, appelle le phare. C'est le son de la police. Encore un contrôle une fois de plus. J'ai pas le temps de l'argent, j'ai un show ce soir. Vous voulez pas mon permis, mais pas bien long bois. L'Afrique plane sur la ville, trop de style. On remonte le falzard jusqu'au nombril. Quand on arrive en Dibi, si tu kiffes, tu dis so. Dans la salle. Elle nous montre les loges et tout doucement on s'installe. Backstage, tout le monde est bien chaud. C'est mort en mort dans le public. Ça tombe bien, c'est le public est en transe pour acclamer le biseau. Nous en Afrique ou en France, sur scène on mouille le maillot. Chez nous, pas de différence. Tout le monde est au même niveau. La foule qui crie, on l'a. Allora, loro sono Bisso Nabisso, dal loro secondo album Africa. E allora questo album, che appunto è il secondo lavoro di questo progetto che è stato portato avanti da Passy, il primo album che nel 2000 aveva raccolto tantissimi successi e consensi, e anche in questo album loro lavorano insieme a Manu Dibango, a Sheb Khaled e tanti altri artisti. Il brano che siamo ascoltati è Show Sessoir. E allora voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Vi ricordo il contatto telefonico che è 06 49 17 50 e questa è Radio Africa. E allora andiamo ancora avanti, un altro artista, diciamo così, della diaspora è Mokobé col suo viene dal Mali, col suo album Mon Afrique, veramente impressionato, un album insieme a tantissimi artisti che vanno da Viviane Dur a Salif Keita, a Tike Ja Fakoly, a Yossou Ndour. Ma il brano che vi voglio far ascoltare è questo C'est dans la joie. E allora questo brano è suonato insieme a Patson, e Patson, il vero nome di Patson è Patrice Mian Kouassi, ed è un umorista francese di origine ivoriana, e già nel 2006 partecipa a molti spettacoli. Nel 2007 presenta il suo Patson Show al Teatro dei Disert e poi al Teatro des Temples, e partecipa e diventa piuttosto famoso. Nel 98 lui ha creato l'associazione Microdor, con la quale appunto sostiene molti progetti umanitari sul continente africano e in Francia. È soprattutto un progetto socioculturale e pedagogico che consiste nel costruire degli atelier di danza, di teatro, con l'obiettivo di creare uno show dove gli attori principali sono i giovani dei quartieri della città, delle banlieue, e quindi costruisce insomma un progetto che ha uno scopo socioculturale e pedagogico. Allora Mokobé lo incontra insieme a lui appunto in questo album, in questo progetto che si chiama Mon Afrique, il brano C'est dans la joie. Yeah. Ça va chauffer ce soir. Les beaux sont jolis comme ça. Il y a aussi des vilains. Mais on est ensemble. Et à sa beauté. La beauté se vend pas à la pharmacie. On est ensemble. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est dans la joie là qu'on va. tirer le gros lot, on y va rapido. C'est du sûr, tu vas pécho, à l'aise. Ça grouille de sister dans le collimateur des chasseurs. T'as du mal à danser comme Sean Paul. Si tes rêves, vas-y, joue tes épaules. Remplis ton verre, trinque, c'est la nouvelle ère. 5, tout ce qu'il faut pour te plaire. Y'a des belles gosses, y'a des beaux gosses en force. Oh, c'est dans la joie que tu vas swinguer. Hey, t'en fais pas, on va se marrer. C'est la nouvelle danse, c'est la grande classe. Prends place, personne te remplace. On a la puissance, on voit la sono. C'est maquille, y'a pas le feu, y'a pas le drap. Si tu manges pas de suite, ça va être froid. Rajoute une coupe, man, t'écoute et fais comme chez toi, gars. T'écoute, DJ, perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes. Yes, papa. La foule de presse, j'ai déjà. Y'a faux, lâche ton dernier pas de danse. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance. Eh hey, mon Kobe, toutes les fans dans cette boîte-là, elles s'appellent Laisse-moi tranquille. Eh hey, mon tuyau. Ça c'est cadeau pour vous, j'ai les jambes. Aïe. Lago, remis ton affaire. Tiens ça. Yeah. Hey, la petite bouche en bouchon. Fais-moi trembler. Je t'aime à casser tout. loro sono i Magic System, un gruppo musicale ivoriano che si è formato nel 1996. Questo è il brano che li ha resi famosi, le premiere Gao, e questo, questa volta rimissato e rieditato da Bob Sinclair. E loro sono diventati, sono quattro membri di questo gruppo: Asalfo, Goudet, Tino e Manaja, e si erano esibiti in feste e avvenimenti locali. Diciamo che loro provengono da quell'ebollizione che in Costa d'Avorio, soprattutto ad Abidjan, dette luogo a un movimento giovanile, studentesco, universitario soprattutto, molto forte, che trovò in questo genere musicale lo zouglou, il suo modo di esprimersi, di esprimere anche le difficoltà della vita degli studenti. Allora molti gruppi sono usciti fuori da questo movimento dello zouglou. I Magic System sicuramente poi sono stati quelli che hanno avuto più successo, perché appunto questo brano, le premier Gao, è stato appunto molto suonato un po' dappertutto e anche rivisitato. 17:22, questa è Radio Africa, voi siete sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. E allora andiamo ancora avanti su queste modalità. C'è una crew, diciamo così, che si esibisce a Londra in serate che si chiamano Secousse dal 2008. E allora, da una raccolta di queste serate, voglio far ascoltare questo brano che si chiama Skit Dumelang, un musicista che viene dal Sudafrica, ma che si ispira sia alle sonorità sudafricane sia a quelle del Soukous. Thank you. Questi skit sono gli skit di il brano di Dumelang e fanno parte appunto di questo CQC Club Anthem, questi brani che la crew londinese ha portato in giro non solamente a Londra, a Parigi, a New York, a Stoccolma, a San Paolo, a Mosca, che hanno fatto muovere parecchio. E allora vi ricordo che questo sabato 28 dicembre ci sarà una serata a sostegno di Radio Onda Rossa al Quadraro, esattamente nello spazio sociale Nido di Vespe a Via dei Ciceri 131. Ci sarà alle 18 un aperitivo e poi dalle 19 la presentazione della Scarceranda 2014 e poi dalle ore 20 la cena, quindi allo spazio sociale Nido di Vespe. E allora loro avevano delle ascendenze sudafricane, i Mautella Queens, sono uno dei gruppi, diciamo così, più famosi della scena sudafricana, Malatini e le loro Mautella Queens, e sicuramente Casette è il brano più conosciuto. All right. kala se moye praying together gore body ma re tshuse sonke asibambane ngezandla we all Africans akukhutha umphuthe for every South African child women and men for every township city rural land for every whisper dream in a distant land always been said divided we fall together we stand together as one thy will be done the Lord gave the world to all and not to one none above the other is the way to live we take and give born free we shall achieve woke umuntu ahlangane sebenzele phambili phase phase unity is all we need in this world this shouldn't be about race it's cut up with some affairs squad that came down our world in my Africa say fair I'm on Comienza comme la combien de combattants combien de styles combien de Mandela combien de sœurs de frères ont vu des pères se faire bomber là combien de noirs de rouges ou bien de blancs ont été pendus là la force de Mandela la vérité c'est qu'il faut pardonner évoluer on n'oublie pas mais on doit développer l'identité nouvelle qui prend en compte toutes les entités Apadis, Guatakem, Mandela c'est l'unité basement of a constitutional democratic political order in which regardless of color gender religion political opinion or sexual orientation, the law will provide for the equal protection of all our citizens. I'm on. Songs will be played, Africa celebrate, join the team making change. I can see Africa in this day and age, shouting out a mantra, cause we all the same page. I spy this song with a different facial features. Matter song as Yazoo, what Madiba's speech means the Africa thought. We at the top of the list. Stand tall and even put up your fist. From jail cells to office parks lit. Revolution ignite with a spark. See red libolodi is a spoon na emalini, but I'm African. To do this as long as any. This needs unity of purpose. It needs unity in action. It requires us all to work together to bring an end to division, an end to suspicion, and to build a nation united in our diversity. They want change and change. E visto che siamo arrivati in Sudafrica, questo era un omaggio di Didier Awadi a Mandela, il brano è Amandla, che vuol dire potere, e questo fa parte di dell'album di Awadi President Afrique, che appunto è un album che raccoglie le testimonianze di vari musicisti sui presidenti che hanno fatto l'Africa, e missando anche sempre delle voci di questi presidenti. Avete ascoltato infatti uno pezzo di un discorso di Mandela. Questa volta il brano era insieme agli Squatter Camp, che sono sette ragazzi sudafricani di questo gruppo sudafricano che si chiama appunto Squatter Camp, e il nome deriva dagli Squatter Camp, che sono delle bidonville che si sono formate in Sudafrica, e la gente che vive in queste bidonville informali naturalmente sono poveri, soggetti diciamo così, che vengono identificati come criminali. E questo è un gruppo che questi ultimi anni si è fatto molto sentire anche con il suo impegno civile, infatti ha incontrato Awadi in questo brano che appunto era dedicato a Nelson Mandela. 17:36, questa è Radio Africa, voi sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Rimaniamo in Sudafrica con il Kwaito, questo genere musicale che è un mescolamento di pop, di musica tradizionale, di vagga, che soprattutto negli anni 80 ha fatto ballare moltissimo i ragazzi delle township, diciamo più che negli anni 80, negli anni 90, subito dopo le elezioni di Mandela, e quindi insomma la fine ufficiale dell'apartheid. Lui è Bongo Muffin con questo brano Amadrosi, un brano che mescola appunto il sound tradizionale con i suoni urbani del rap e con influenze ragga. È un brano che parla degli antenati, dei legami con appunto la tradizione, e la voce è di Tindishwa, la voce è che è una musicista che ha suonato anche con Scancananzi, con Shaka Khan e tanti altri. E allora questo è Bongo Muffin. You understand, man, if I understand that one day in life, man, I'll face reality. All right. Love the way you live, and live the way you love, and I shall not gather and plunder, because tomorrow shall always be there. Son of man, I understand you had to come on the day, so, okay. Lei, Abantwana Bokolo, e anche lei fa parte di questa scena musicale sudafricana, che però questa viene identificata come lo Zulu House. Ayo, Abbasciante con il suo gruppo, quasi completamente al femminile, con questo Come Get Me. Lui è Kiko Tuala con questo brano Moja G. Siamo appunto sempre in Sudafrica. Era il periodo quasi prima dell'esplosione del Kwaito, si chiamava Bubblegum questo genere, era il genere di Brenda Fossi, di Von Shaka Shaka e di Kiko Tuala appunto, e lui parlava di quello che succedeva nei ghetti e parlava in un misto di inglese, Zulu, Soto e Scanto, anche una sorta di slang dei tozzi che sono come vengono definiti, come dire, i gangster delle township. Radio Africa 87.9 nella modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Una galoppata attraverso le sonorità del Sudafrica. virata verso il Kenya. Loro sono Joseph Ogidi e Julius Owina, un duo molto popolare e soprattutto fra i giovani. Il brano è A Toti. Hey, hey. Makoro A Toti Part 2. Lady Lando, Yakumi Paka Pinja Mangima, Kidi Kidi Maji Maji Rodonjoko. Hey, hey. A Toti Part 2. Ma A Toti Part 2. Chaco. Quiero comer, quiero comer, Jody, quiero comer, quiero comer, Jody, quiero comer, quiero comer, Jody, a Jody. Quiero comer, quiero comer, Jody, quiero comer, quiero comer, Jody, quiero comer, quiero comer, Jody, a Jody. Ni a comer en vile tu na taka raka raka piño malo yengoga. Ta Jody yengoga yengoga mose bueno. Ta Jody quiero ga quiero ga mose quiero. Ta Jody quiero ga quiero ga mose quiero. That's when I go do it my way. That's what I want my team. I got it from where so you can hear it, dear. So you can have a bend the duari. You can hear it, bend the duari. That's what it's in the killer. Again, my meal, Maratoti. Nango, Toti. E allora loro, GDG e Magi Magi dal Kenya, loro rappano in luo e anche in inglese. Ci ha messo gli occhi sopra la Gallo Produzioni, che è una casa, un'etichetta discografica sudafricana che appunto li ha prodotti per il mercato sudafricano, e il brano appunto A Toti risuona tantissimo di sonorità anche sudafricane. Allora 17.54, fra non molto faremo un approfondimento nell'ultima parte della nostra trasmissione sulla situazione in Sud Sudan. Nella modulazione di frequenza Radio Africa. E allora un approfondimento sulla questione del Sud Sudan, e lo facciamo insieme a Massimo Zaurini, direttore di Atlas Info Africa e Africa e Business. Massimo, ci sei? Ci sono, salve, buonasera. Benissimo. Allora, senti, innanzitutto qualche notizia, qualche aggiornamento su quello che sta succedendo in Sud Sudan, gli scontri che sono iniziati da qualche settimana, si parla quasi di 1000 morti, insomma, hai notizie sulla situazione sul campo? Le notizie sono molte, spesso non confermate o comunque difficili da confermare in maniera indipendente, si susseguono con grande rapidità. le ultimissime parlano, sono di segno opposto, arrivate proprio nelle ultime ore. Da un lato, nel vertice straordinario che i capi di Stato dell'IGAD, che è l'organismo regionale che riunisce i paesi dell'Africa orientale e del Corno d'Africa, durante questo vertice il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, sarebbe detto disponibile a un cessate il fuoco immediato, quindi a una tregua per dar tempo ai mediatori di intavolare una soluzione politica alla situazione. Dall'altro lato, poco fa, il portavoce dell'esercito governativo sudanese ha annunciato la presa, la riconquista della città di Malakal, nello stato di Unity, una località importante che negli ultimi 4 giorni è stata teatro di intensi combattimenti tra le forze governative e le forze, chiamiamole così, dei ribelli. In realtà si tratta di soldati sempre dell'esercito governativo sudanese, ma che da una settimana, da una decina di giorni, si sono opposti al presidente Kiir, scegliendo invece di spalleggiare le richieste di altri esponenti del partito capeggiati dall'ex vicepresidente Riek Machar. Senti, gli interessi in gioco sono molteplici, considerando che il Sud Sudan è stato creato nel 2011 anche con una forzatura rispetto al quadro postcoloniale dell'Africa. Il Sud Sudan è una regione ricca di petrolio ed è proprio probabilmente questo il, diciamo così, da una parte la fortuna, dall'altra la sfortuna, come spesso accade in questi paesi. Ci sono degli interessi molto forti, il Sud Sudan poi non ha uno sbocco al mare, quindi c'è anche un discorso che riguarda i progetti di oleodotti per portare questo petrolio fino in Kenya. Ci sono degli attori, insomma, al di là dei paesi che sono lì intorno, delle potenze come la Cina e gli Stati Uniti, che hanno degli interessi ben precisi. Ci sono anche delle compagnie straniere che stanno sfruttando questo petrolio, che hanno intenzione di sfruttarlo. Ma sì, diciamo che il Sud Sudan, tutta la sua storia gira intorno al petrolio, la sua storia recente di nazione a tutti gli effetti, nata appunto nel luglio di 2 anni fa, del 2011, formalmente, il più giovane stato del pianeta. Ma anche la sua storia degli ultimi 30-40 anni, ovvero del conflitto che per anni ha opposto quelli che allora erano gli indipendentisti del sud nei confronti del nord sudanese di Khartoum. Tutto è sempre girato intorno al petrolio, perché proprio in quella che oggi è la zona di confine tra Sudan e Sud Sudan si trovano i giacimenti petroliferi più importanti. Il problema del paese è, da un lato, il petrolio, dall'altro sicuramente, diciamo così, una classe dirigente che in queste settimane ha dimostrato i suoi limiti. È una classe dirigente che nasce non come una classe dirigente politica, ma come una classe dirigente di un gruppo guerrigliero e armato che per 30 anni è stato occupato in un conflitto armato, quindi più abituata a gestire le controversie con le armi che in sede politica. E infatti quello che sta accadendo in questi giorni in Sud Sudan, è bene chiarirlo, non è né uno scontro etnico, come alcuni media lo vanno definendo, né particolarmente un grande scontro internazionale, uno scontro politico interno, tutto interno al partito di governo ed ex movimento ribelle, l'esercito di liberazione popolare del Sudan, o movimento di liberazione popolare del Sudan, tra due correnti politiche molto forti, quella del presidente Salva Kiir e quella del suo ex vice Riek Machar. Ora queste due correnti si vanno allineando anche alle due principali comunità etniche del paese, i Dinka e i Nuer, ma è bene ricordare quando si parla di Africa che in sistemi politici giovani, in questo caso giovanissimi, perché appunto hanno 2 anni di vita, la creazione del consenso politico avviene per le vie più elementari, più semplici, ovvero quelle, il raggruppamento etnico piuttosto che il raggruppamento religioso, per cui anche qui la dimensione comunitaria etnica va letta più in chiave politica che in chiave antropologica. Quindi questa grande differenza, questa lotta politica in corso si fa in un paese in cui la politica ancora deve svilupparsi con le armi. Dietro tutto questo ci sono degli interessi sicuramente molto grossi. Il petrolio sudanese fa gola a molti, è un petrolio che storicamente ha sempre preso la strada per l'Oriente, soprattutto per la Cina, perché prima ancora che il Sud Sudan esistesse, quelli erano i giacimenti del Sudan. Il petrolio ancora oggi del Sud Sudan viene esportato attraverso un oleodotto che corre in territorio del Nord Sudan, che fu costruito dai cinesi, che sbocca sul Mar Rosso e che da lì prende la via della Cina. Diciamo che il Sud Sudan ha mantenuto buoni rapporti con i cinesi, pur essendo un paese voluto dagli Stati Uniti. Ci sono molte opzioni oggi al vaglio del governo sudanese, ma anche degli altri attori connessi, su il nuovo percorso che il nuovo oleodotto dovrà prendere. C'è chi dice appunto che andrà verso est, quindi verso il Kenya piuttosto che la Tanzania. Ci sono vari progetti per oleodotti in quell'area. C'è anche chi dice che invece andrà a collegarsi all'oleodotto Chad-Camerun, che è stato costruito dalla ESSO con la Banca Mondiale, che invece porta il petrolio verso l'Oceano Atlantico e quindi il lato occidentale dell'Africa, e quindi più facilmente verso i mercati americani. Però insomma questi sono scenari tutti in divenire. Direi che una delle cose più interessanti di quello che sta avvenendo in Sud Sudan è che, a parte i grandi e soliti attori internazionali, potrebbe essere interessante vedere gli attori regionali. Sempre di più in Africa infatti i blocchi regionali vanno assumendo peso e connotato. Non è un caso che in queste ore si stia negoziando a Nairobi per volontà di un organismo regionale dei paesi dell'Africa orientale, per cui ecco, questo protagonismo africano anche nel risolvere le crisi quasi a voler segnalare l'esistenza di interessi superiori a quelli politici economici dei singoli paesi, ma appunto si dà un primato agli interessi politici e economici di un insieme di paesi, di un'intera area del continente, è sicuramente uno spunto interessante. Certo, adesso si evidenzia anche per esempio il ruolo del Kenya, che comincia impegnata anche sul fronte somalo, che in questo caso specifico del Sud Sudan comincia ad avere un suo peso, e anche l'Etiopia. Questa è in sostanza. E anche l'Uganda, sicuramente. Certo. Questi che hai citato sono i 3 attori principali di quella zona del continente africano. Non dimentichiamoci che sono attori che in Sud Sudan hanno grossi interessi economici e commerciali. Il Sud Sudan è un paese che esiste sulla carta, ma quasi inesistente nella realtà, per cui importa praticamente ogni cosa di cui ha necessità. Per fare un esempio, nel 2008-2009 le esportazioni dell'Uganda verso il Sud Sudan sono passate da 60 milioni di dollari di valore a quasi 800 milioni di dollari nell'arco di neanche un anno. E così in proporzione anche per gli altri paesi dell'area. Per cui da un lato questo, cioè il Sud Sudan è un mercato per tutta una serie di prodotti che gli altri paesi, perché appunto è un paese che non esisteva, che è stato in guerra per 20 anni, per 30 anni, inesistente, che ha bisogno di tutto. Unito a questo c'è poi il fatto che i progetti infrastrutturali, energie, infrastrutture, strade, su cui l'Africa orientale sta scommettendo, sono tutti interconnessi, per cui l'oleodotto che interessa il Kenya e l'Etiopia, ma anche l'Uganda, interessa in parte anche il Sud Sudan, quindi è tutto collegato. Questo è anche appunto un altro dei motivi per cui questi attori regionali adesso intervengono così operativamente nella soluzione delle crisi. Certo, senti, un'ultima domanda, allargando un po' il campo. In quest'ultimo scorcio di anno sembra che effettivamente in Africa ci sia, siamo di fronte a una ridefinizione di certi equilibri, che si fonda soprattutto sullo sfruttamento delle materie prime, dall'intervento francese in Mali, poi in Centrafrica, insomma, quello che avviene in Sud Sudan, la situazione fra il Kenya e la Somalia, insomma, sembra che si sta muovendo qualche cosa, ma questa ridefinizione ha poi come sfondo lo sfruttamento delle materie prime. Sì, è vero, si stanno muovendo tante cose, è un segnale del forte movimento che il continente africano sta registrando negli ultimi anni, è una conferma, gira spesso intorno alle materie prime, perché le materie prime vogliono dire, c'è una differenza rispetto alle tensioni che anche in passato in Africa spesso hanno ruotato intorno alle materie prime. Oggi questi interessi sono meno predatori rispetto al passato, mi spiego meglio. L'interesse per le materie prime è legato a una componente oggi molto africana, come dicevo prima, di altri paesi del continente, magari di paesi vicini, di paesi della regione. Perché l'Africa sta crescendo e in questa sua crescita comincia a ragionare sulle necessità di energia che servono ad alimentare un'industria che è in fase di abbozzo per ora, ma che nei prossimi 10 anni dovrebbe cominciare a svilupparsi a velocità differenti qui e là nella regione. Quindi anche questo sta contribuendo a ridisegnare un po' degli equilibri. Se a questo si somma poi l'interesse perenne di grandi attori internazionali nell'accaparrarsi risorse e la partita in gioco di altri grandi attori internazionali che cercano invece di rimettere un po' in sesto le proprie economie un po' dissestate, ridisegnando una sorta di impero coloniale economico, mi riferisco soprattutto ad alcuni paesi europei, ecco che appunto gli ingredienti per smuovere un po' le acque in alcune zone del continente ci stanno tutti. Certo. Va bene, allora Massimo, io ti ringrazio per questo approfondimento, vi ricordo che abbiamo approfondito la questione del Sud Sudan insieme a Massimo Zaurini, direttore di Atlas Info Africa e Africa Business. Rimedio all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza, questa è... E questa è Radio Africa. E allora 18.08, finisce qui l'ultima trasmissione dell'anno di Radio Africa, ma rimanete naturalmente in... sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, perché adesso ci sarà Soul Peanuts e il suo jazz. E vi ricordo infine il capodanno di Radio Onda Rossa, il 31 alle 10.30 a Rebibbia, davanti al carcere a via Ugo Maietti, angolo Bartolomeo Longo, presidio sonoro e lenticchiata propiziatoria. E poi dalle 24 all'Acrobax, via della Vasca Navale, capodanno appunto con Radio Onda Rossa, concerto dei Vogiagia e poi DJ Set, Radio Torre, Sound System, Daia Polete, Morfire e tanti altri. When the values get torn, shredded to pieces and treated with scorn, left to run away with no one to mourn, a generation that will see the beauty of a new dawn. MC's OD with the negativity, how real can a real be? MC's OD with the negativity, how real can a real be? shots in the head, brutalized, victimized to the very end. Been surrounded by the hustlers and the leeches and friend. Now we're left with the boys all trying to be men. With no guidance and no knowledge of no self within. We wonder why there's no relevance to rap again. It's all about cash, money, diamonds, and the boss. There ain't no love left. Brain dogs, tongue dogs, amplified, ghettoified, all for better, for worse. MTV stereotypes, so the image is cost. With a comma that is lesson for my blood, I'm a drama, I'm no Osama, and the Oklahoma bomber. All together, it's a